Letture di Radio 24. Mancano poche ore all'inizio degli esami di maturità che Radio 24 seguirà domani sera con un appuntamento speciale, notte prima degli esami, l'oramai abituale appuntamento per accompagnare gli studenti nell'ultima notte di ripasso e di studio, condotto da Federico Taddia. Quest'anno, tra l'altro, ci sono alcune novità nelle prove di maturità. Per arrivare alla lode non ci sarà più una quota di bonus a discrezione della commissione e soprattutto questo sarà il primo esame senza buste sigillate. I titoli e gli argomenti degli iscritti arriveranno direttamente via email. E così, per la prima volta, mercoledì le tracce della maturità verranno mandate via mail alle scuole, senza più fogli, imbustamenti, vetture che partivano alla volta degli uffici regionali, scorte per difendere il prezioso materiale, oggetto del desiderio di qualunque studente italiano in età da esame. La decisione di passare dai plichi cartacei a un meno macchinoso invio via mail era nell'aria già da alcuni anni. L'ipotesi era arrivata sul tavolo del ministro precedente, Maria Stella Gelmini. Niente da fare, però. Era parsa troppo ardita. In caso di fallimento si rischiavano le dimissioni. Quando alla guida del Ministero dell'Istruzione è arrivato Francesco Profumo, l'idea del plico digitale è stata adottata subito e anche con molto entusiasmo, visto che nel frattempo si prospettava pure la necessità di dover sostituire la sofisticata apparecchiatura che permetteva di stampare in sicurezza ogni anno le tracce. Cancellati in un solo colpo i costi del nuovo macchinario, ma anche del trasporto dei plichi, forze dell'ordine comprese, centinaia di migliaia di euro risparmiati. Operazione di tutto rispetto, a patto che tutto vada per il meglio. In queste ore, nelle stanze del Ministero, forse si teme di più una defaillance delle stampanti delle scuole, del grande furto di un hacker. Le tracce, infatti, sono in un formato in grado di permettere di far leggere i fogli anche ai non vedenti, ma non tutte le apparecchiature in possesso delle scuole possono stampare in braille, e a Viale Trastevere spiegano di aver predisposto tutto per superare rapidamente anche inconvenienti come questo. Un certo numero di plichi cartacei sono comunque disponibili negli uffici scolastici regionali e pronti ad essere distribuiti in caso di emergenza. L'altra novità di quest'anno è rappresentata dalla stretta sui voti. Va a regime il decreto Gelmini. Per aspirare alla lode bisogna avere preso 8 in tutte le materie nell'ultimo triennio, ma non solo. Il candidato deve anche arrivare alla maturità con il massimo dei crediti, 25, e deve poi prendere il massimo in tutte le prove d'esame, arrivando a 100 senza usufruire dei 5 punti di bonus. Anche quest'anno si promette tolleranza zero nei confronti dei telefonini, mentre impazzano pronostici sulle tracce e probabilmente arriverà anche il solito documento bufala con prove finte molto ben riprodotte. L'anno scorso, a rimanere beffati, sono stati circa il 40% degli studenti, secondo rilevazioni del sito scuola.net. Troppi.